Plus. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Esercito libico bombarda un mercantile turco, morto un ufficiale e alcuni feriti. Ankara dice era in acque internazionali, stava violando l'embargo su Derna, replicano i libici. Immigrazione verso l'ok alla distribuzione di profughi in Europa, ma Bruxelles impone le regole, tecnici stranieri per la fotosegnalazione e centri di smistamento. Il presidente della Consob Vegas parla di rischio bolla dalla corsa ai titoli azionari. Troppi vincoli e regole per le banche, scrive nella relazione annuale, frenano l'economia. Vertice in procura in Sardegna sull'omicidio del 19enne alla fermata dell'autobus. Tre al momento i sospettati, tra loro un minorenne, forse una vendetta perché aveva difeso la sua fidanzata. Elezioni amministrative, Trento va al PD che però perde voti, la Lega raddoppia i consensi, alta l'astensione, in corso lo spoglio per la Val d'Aosta. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it, durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura andiamo all'estero con una notizia di poco fa, una nave cargo turca è stata bombardata mentre si avvicinava al porto di Tobruk. Il punto con Marco Barbonaglia in diretta da Istanbul. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Una nave mercantile turca battente bandiera delle isole Kok, la Tuna One, è stata attaccata al largo del porto di Tobruk in Libia. Il terzo ufficiale è morto e altri uomini dell'equipaggio sono rimasti feriti. Stando alle dichiarazioni che arrivano dal Ministero degli Esteri turco, la nave doveva consegnare un carico di cartongesso e si trovava in acque internazionali a circa 13 miglia dalla costa, quando è stata attaccata sia da terra che dall'aria mentre cercava di allontanarsi. La nave è ora danneggiata, ma a quanto si apprende può ancora muoversi e starebbe facendo ritorno in Turchia dopo aver richiesto una scorta. Nel frattempo l'esercito guidato da Khalifa Haftar, generale ormai in pensione, sceso in campo nel caos libico, ha confermato tramite il suo portavoce di aver effettivamente bombardato il mercantile turco e ha detto che la nave ha violato l'ordine di non avvicinarsi alla città, in parte controllata dalle milizie islamiste affiliate all'ISIS. Ankara nel frattempo protesta formalmente con le autorità libiche, con una nota presso il consolato di Istanbul e l'ambasciata nella capitale, e contemporaneamente ha avviato una procedura diplomatica presso le Nazioni Unite e l'Organizzazione Internazionale della Marina. Ricordiamo che la tensione è da tempo alta tra Ankara e la Libia. Non più tardi di febbraio il premier riconosciuto libico Abdullah Al-Thani aveva infatti deciso di interrompere le relazioni con Ankara a causa del suo presunto sostegno a gruppi ribelli islamisti attraverso l'invio di armi, cacciando dal paese diverse agenzie turche, mentre la Turchia aveva richiamato il proprio ambasciatore dalla Libia. Per il momento da Istanbul è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Marco Barbonaglia, su questi temi torneremo più avanti nel corso della trasmissione anche per cercare di fare un'analisi su quello che sta succedendo e quali possono essere le conseguenze. La Libia dunque è una giornata importante, quella di oggi sul fronte della gestione del problema immigrazione e sbarchi. Si stanno ipotizzando una serie di misure europee mentre l'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, sarà a New York e interverrà alle Nazioni Unite. Se non si rischiasse un'inutile retorica, si potrebbe battezzare questa come la settimana decisiva per la questione immigrazione. Dopodomani, infatti, il Collegio dei Commissari Europei dovrebbe approvare l'agenda europea per le migrazioni, che si posa su quattro pilastri, il più controverso dei quali è l'obbligatorietà della suddivisione dei profughi in base a un meccanismo di quote. La Commissione ha deciso di invocare l'articolo 78.3 del Trattato di Lisbona, finora mai applicato. In una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, si legge, il Consiglio su proposta della Commissione può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Grazie a questo articolo la Commissione potrà mettere la questione delle quote su una corsia preferenziale, quindi il veto di alcuni paesi non basterà a bloccare il provvedimento, fortemente voluto dal presidente Juncker. Nella bozza che circola, i numeri dei rifugiati da ricollocare non sono ancora specificati. La forbice va da 5 a 20.000. Ci sarà da capire poi se e quanto la cooperazione di questi paesi terzi sarà condizionata da clausole penalizzanti per il nostro paese. Infine, oggi pomeriggio, l'alto rappresentante europeo per la politica estera, l'italiana Federica Mogherini, parlerà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questi temi del piano europeo che prevede la presenza di personale internazionale in Italia torneremo a parlare tra poco, lo faremo col sottosegretario agli interni Domenico Manzione, quello che ha la delega sull'immigrazione, proprio per capire come potrebbe reagire l'Italia a questa ipotesi. Andiamo alle elezioni, in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, il punto con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto le sfide principali in Trentino Alto Adige: è confermato il sindaco uscente di Trento, Alessandro Andreatta del PD, con il 53,7% dei voti. Si va invece al ballottaggio per la nomina del primo cittadino di Bolzano tra Luigi Spagnolli del PD, Alessandro Urzì, appoggiato anche da Forza Italia. Si è votato anche in Val d'Aosta, lo spoglio è ancora in corso, ma si va ad Aosta verso la vittoria del centro-sinistra. Fulvio Centos, appoggiato anche dal PD, dovrebbe farcela, ora è al 53,9% con 29 sezioni scrutinate su 38. I ballottaggi si svolgeranno il 24 maggio, una tornata che ha riguardato circa 400.000 elettori, ma rappresenta un primo test in vista della tornata del 31 maggio. Gli elementi chiave sono l'affluenza bassissima in Val d'Aosta del 61% contro il 66% del 2010, in Trentino Alto Adige del 63,7% contro il 69,8%. Sei comuni di questa regione, tra l'altro, tra cui Ortisei, verranno commissariati per mancato raggiungimento del quorum. In Alto Adige la bassa affluenza è dovuta anche a una disaffezione dell'elettorato sudtirolese dal partito di riferimento, la Sud Tirol e il Volkspartei, e poi c'è il crollo di Forza Italia, il raddoppio della Lega, la tenuta del PD, la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle rispetto alle europee. E arrivano già i primi commenti. Salvini della Lega parla di risultato storico: abbiamo triplicato i voti, dice. Da Forza Italia commenta Fitto: si è confermato che il nostro partito a Trento e a Bolzano è andato sotto il 4%, il centrodestra messo in campo da Berlusconi, dice, è abbastanza superato. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, l'analisi di Daniele Biacchessi. Ce l'abbiamo? Via. Dalle elezioni comunali in Trentino Alto Adige giungono indicazioni importanti sul piano nazionale, a poche settimane dal voto regionale del 31 di maggio. Il Partito Democratico sostanzialmente tiene e piazza sindaci dappertutto. Le sue percentuali sono in linea con le previsioni dei più autorevoli osservatori di politica. A Trento e Bolzano era attesa la sfida tra Forza Italia e Lega Nord, un primo test per la leadership del centrodestra. I dati parlano di una netta affermazione del Carroccio, che a Trento e Bolzano supera il 12%, mentre Forza Italia non arriva al 5%. In particolare a Bolzano Forza Italia svanisce nel nulla e passa in 5 anni dal 20% a neanche il 4%. La ricerca di un'autonomia pare maggiormente intercettata oggi dalla Lega. In Alto Adige la distanza degli elettori dalle urne corrisponde in qualche maniera anche a quella che si profila come una disaffezione dell'elettorato sudtirolese del partito di riferimento, ovvero la Sud Tirol e Volkspartei. Il partito di raccolta degli altoatesini di lingua tedesca potrebbe infatti pagare alcuni tagli introdotti dal nuovo governatore. Dal Trentino giunge quindi una lezione che i partiti e i movimenti non potranno da oggi sottovalutare. Così dunque Daniele Biacchessi sulle elezioni. Abbiamo parlato di immigrazione, che resta in primo piano a Bruxelles, ma a Bruxelles resta in primo piano anche la questione economica, anzi le questioni economiche, sia quella greca che quella italiana. L'Eurogruppo si apre oggi, viene preceduto dalla cosiddetta riunione dei cinque presidenti: quello dell'Eurogruppo Dijsselbloem, quello della BCE Draghi, quello dell'Europarlamento Schulz, quello della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk. Domani, tra l'altro, Atene deve restituire 750 milioni al Fondo Monetario. Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, la domanda è se si vede una luce. Dunque sì, assolutamente, Atene domani dovrebbe pagare 750 milioni al fondo monetario, cosa che se non avverrebbe darebbe via libera al cosiddetto default, ma le situazioni sembra che siano appunto ottimiste. Meno ottimismo invece c'è sul fronte di Bruxelles, dove lo stesso ministro Pier Carlo Padovan all'ingresso appunto della riunione ha detto che non prevede ci sarà una risoluzione finale sul caso Grecia e quindi siamo ancora in una situazione abbastanza di attendismo. Segnalo solo che anche un rappresentante del governatore della Banca Centrale, l'austriaco Ewald Novotny, dice che la questione greca è ancora una questione soprattutto politica, non economica, e che la BCE può essere il prestatore di ultima istanza per le banche, ma non per gli stati. Una risposta indiretta a quelle indiscrezioni che il Wall Street Journal oggi ha pubblicato, dicendo che ci sarebbe un piano B del fondo monetario nel caso in cui ci fosse appunto un default greco, che andrebbe a colpire anche le filiali numerose delle banche greche nei Balcani. Grazie Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questo aggiornamento. All'attenzione dell'Europa anche la situazione finanziaria italiana dopo la sentenza della Corte Costituzionale, della quale stiamo parlando ormai quasi quotidianamente, in merito al blocco della rivalutazione delle pensioni a partire da 3 volte il minimo, varato con il decreto Salva Italia dal governo Monti. Naturalmente si cercano soluzioni politicamente accettabili. Il servizio. Dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri di venerdì il decreto sulla rivalutazione delle pensioni reso necessario dalla sentenza della Corte Costituzionale. La restituzione della mancata perequazione non avrà impatto sul deficit, che per il 2015 resterà programmato al 2,6% come previsto dal DEF. I parametri europei saranno quindi rispettati, fa sapere il ministro dell'Economia Padoan. Si trova una soluzione che sarà in armonia con i dettami della sentenza della Corte e che rispetterà i parametri che stanno già nel DEF. La rassicurazione arriva dopo la notizia, trapelata da Bruxelles, di una possibile messa sotto monitoraggio dell'Italia da parte della Commissione europea, le cui raccomandazioni sono attese per mercoledì. A rischio c'è il via libera all'uso della flessibilità chiesto dal nostro Paese per attenuare la regola del debito e il percorso di rientro del deficit strutturale. Per contenere l'impatto sui conti pubblici, la restituzione sarà selettiva e parziale, ha spiegato Padoan, ispirata ai principi di progressività e temporaneità indicati dagli stessi giudici della Consulta. I rimborsi dovrebbero essere modulati in base alle fasce di reddito pensionistico e ad avere di più in proporzione dovrebbero essere i pensionati titolari degli assegni più bassi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su questo tema è tornato ad intervenire il sottosegretario all'economia e segretario di scelta civica Enrico Zanetti. Ascoltiamolo, intervistato da Alessandro Milan. I premi in questo caso non tagliano, Clare, lasciare su Padoan, perché vede il motivo per cui ho ritenuto importante invece intervenire da un punto di vista politico. È perché se noi continuiamo sempre soltanto a valutare tutte le cose solo in funzione della tenuta del bilancio, per forza la gente si arrabbia. Cioè Renzi dovrebbe dire cosa, secondo lei? Dovrebbe andare quello che, ovviamente, non posso che dirle, quello che ho detto io. Cioè che qui noi non restituiamo a tutti, non perché ce lo chiede l'Europa, perché non dobbiamo sforare il 3%, perché uno più uno fa due, non esiste solo la matematica. Ma perché? Ma perché politicamente, nell'istante in cui noi abbiamo chiesto sacrifici enormi ai non pensionati, ai pensionati di domani, noi non possiamo costruire un sistema in cui invece a chi è già pensionato non chiediamo nessun sacrificio. Ovviamente è giusto che gliene siano stati chiesti di meno, solo un blocco dell'indicizzazione, non addirittura sottrazione di soldi. È giusto che il legittimo affidamento ci deve essere per chi è avanti nell'età, ma tu non puoi chiedere 100 e non metterlo in discussione, mentre gli altri chiedi 10 e viene messo in discussione e sta a zero. Perché è così che scateni le guerre generazionali nel paese. Non possiamo avere un paese che continua a declinare tutti i diritti solo al passato. Così Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia, intervistato da Alessandro Milan. E veniamo alla relazione annuale della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati e sulla borsa, che quest'anno si svolge ad Expo. Il presidente Vegas ha parlato tra l'altro di rischio bolla dai rialzi dei mercati finanziari. Livia Zancaner per Un Punto, che si trova là. Livia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, appunto, come dicevi tu, quest'anno la commissione che vigila sui mercati ha scelto l'Expo come sede della relazione annuale. Sono presenti i nominati dell'economia e della finanza, ma anche Roberto Marone e Giuseppe Sala. Expo come segno di ripresa dell'economia italiana, ha sottolineato il presidente Vegas. Le borse infatti sono salite ai livelli del 2011, anche se sono ancora ben lontane dai livelli pre-crisi del 2007. Grazie all'intervento della BCE con il suo quantitative easing, i rendimenti dei titoli di Stato sono scesi, i capitali si sono spostati sui mercati facendoli crescere. Questo però, come anticipavi tu, per Vegas rischia di creare una bolla speculativa. Attenzione, dice la Consob, anche alle regole troppo stringenti sulle banche, perché possono comportare una stretta ulteriore al credito e penalizzare le imprese. E per le imprese Vegas ha annunciato una novità, cioè la creazione di un'agenda europea per le piccole e medie società non quotate, un'agenda europea, quindi un programma che potrebbe avere sede proprio a Expo, almeno questa è l'intervento e la novità che avrebbe proposto Vegas. Altra novità è l'innalzamento delle soglie obbligatorie per le comunicazioni di partecipazione rilevanti, cioè quelle che un'azienda quando supera deve comunicare, e sentiamo proprio le parole di Vegas. La nuova direttiva Transparency può rappresentare tra l'altro l'occasione per rivedere l'entità della soglia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, attualmente fissata al 2%. Questa soglia potrebbe essere allineata a quella dei principali paesi europei, che è il 3%, mantenendo fermo il regime agevolato per le piccole e medie imprese, 5%. Perfetto, qui si parla appunto di un investitore che detiene azioni in una società quotata in borsa. Infine il riferimento all'Europa, un'Europa che finora per Vegas è stata miope. È in corso la creazione di un mercato unico dei capitali. Per il numero uno della Consob, uno stabile sviluppo economico non potrà mai essere ottenuto da un singolo mercato finanziario, quindi anche in questo caso è molto importante la creazione di un mercato unico a livello europeo. E Simone, per concludere, una notizia sul dopo Expo: Maroni ha detto che c'è un accordo di massima tra gli azionisti perché qui diventi poi dopo l'esposizione un campus universitario. Ed è tutto, quindi a te Simone. Grazie Livia Zancanere in diretta da Expo. Noi ci fermiamo, subito dopo ci ritroveremo, torneremo a parlare di immigrazione, lo faremo col sottosegretario Domenico Mansione, che è il sottosegretario all'interno appunto con delega ai problemi migratori, e poi ritorneremo sulla violenza sessuale subita da una tassista a Roma. Ne parleremo proprio con una tassista per capire quanto questa categoria, insomma le donne alla guida dei taxi, è a rischio, in particolare nella capitale. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'esercito libico bombarda un mercantile turco, morto un ufficiale e alcuni feriti. Anche Radice era in acque internazionali, stava violando l'embargo su Derna, replicano da Tobruk. Immigrazione, verso lo che è la distribuzione di profughi in Europa, ma Bruxelles impone le regole. Tecnici stranieri per la fotosegnalazione, centri di smistamento. Il presidente della Consob Vegas parla di rischio bolla dalla corsa ai titoli azionari. Troppi vincoli e regole per le banche, scrive nella relazione annuale, frenano l'economia. Vertice in procura in Sardegna sull'omicidio del 19enne alla fermata dell'autobus. 3 al momento i sospetti. Elezioni amministrative, Trento va al PD che però perde voti. La Lega raddoppia i consensi, alta l'astensione. In corso lo spoglio per la Val d'Aosta. Torna da noi Domenico Mansione, sottosegretario all'interno con delega all'immigrazione. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo letto da qualche parte che starebbe suscitando un po' di irritazione dalle vostre parti, inteso come il Viminale, il palazzo che ospita il Ministero dell'Interno, le regole che Bruxelles sarebbe intenzionata ad imporre all'Italia per questa progressiva distribuzione dei profughi all'interno del resto dell'Unione, ossia dei campi di smistamento sul nostro territorio, gestiti, presumo, a livello internazionale e con operatori stranieri che si occupino della fotosegnalazione. È così? È un'ipotesi irritante, per così dire, sottosegretario? Ma no, guardi, è un'ipotesi che, diciamo così, va attentamente valutata, soprattutto sotto il profilo della realizzabilità, più che irritante, direi. In realtà noi abbiamo già avuto l'anno passato 170.000 sbarchi, e quest'anno, stando ai numeri, se facciamo una proiezione di tipo squisitamente aritmetico, arriveremo probabilmente a averne 200.000. La cosa importante quindi diventa più il secondo aspetto della piattaforma europea, vale a dire l'equa distribuzione all'interno dell'Europa, che ci consentirebbe di saltare a piè pari gli accordi di Dublino. Sulla prima parte, in realtà, dipende tutto dalle risorse che l'Europa ha intenzione di mettere in campo per poter realizzare quello che intende realizzare. Perché, come le dicevo, gli sbarchi noi comunque li avremmo, quindi se si tratta semplicemente di metterci le risorse per poterci aiutare a gestirli, allora il discorso io lo ritengo tutt'altro che irritante. Quindi la sostanza è questa, siamo disponibili a patto appunto che ci mettiate delle risorse umane, evidentemente, nella fattispecie il pool umane, che si... oh, umane e materiali che ci consentono, esatto, di quindi anche, anche economiche molto problema, semplicemente, cioè se devo creare un campo di, nel quale avviene questa identificazione e poi nell'attesa poi dello smistamento deve essere un campo finanziato da Bruxelles. Sottosegretario? Ci sente? No, è sparito evidentemente. Sì, ho perso l'ultima parte della sua frase. Dicevo, se ci devono essere questi campi di smistamento, devono essere finanziati da Bruxelles, questo dite voi in sostanza. Ma certamente sì, perché lo smistamento, una volta che ci si arriva, può essere fatto a monte o a valle, cioè si possono spostare subito e poi l'esame delle condizioni di asilante possono essere, come dire, verificate direttamente nel nostro paese anziché negli altri. Però è evidente che in questo caso noi svolgeremmo un'attività rispetto alla distribuzione che non farebbe carico agli altri stati, quindi in ogni caso l'Europa dovrebbe occuparsi di tutto questo. Abbiamo letto di quote di migranti o di profughi fissate in base al prodotto interno lordo di ogni singolo paese europeo. È così, sottosegretario? È curioso. È uno dei criteri, credo, ai quali sia molto attaccato la Germania. In realtà, però, non è l'unico criterio. Anche qualora dovesse essere utilizzato, gli altri criteri rimangono tutti perfettamente in campo e vanno come è intuibilissimo dalla estensione territoriale dello Stato che deve ospitare al numero di alla popolazione che è residente e al numero di eventualmente di ingressi che ha già avuto. Quindi in realtà non potrà mai essere un unico criterio, tantomeno quello del prodotto interno lordo. Si è parlato di una cifra di 60 milioni di euro per l'allestimento di questi campi. Le sembra una cifra adeguata? Guardi, è una cifra decisamente inadeguata. A mio modo di vedere le cose, è una cifra decisamente inadeguata. Anche perché creare delle strutture di accoglienza che possano ricevere un numero di migranti del genere di quello che abbiamo discusso fino ad ora richiede uno sforzo di carattere economico e finanziario non indifferente. In più va tenuto conto che va a impattare con la realtà locale, cioè nel posto dove vengono realizzati, quindi bisogna immaginare anche tutta una serie di misure compensative nei confronti di territori che altrimenti corrono il rischio di essere devastati. Cioè lo stesso quindi... ragionamento che si fa per le grandi opere, in sostanza, sottosegretario, no? Delle compensazioni per i territori che vanno ad ospitare questi campi. Esattamente così, lei si immagina la militarizzazione di una zona, i porti che noi utilizziamo, sappiamo tutti quali sono, da Catania a Pozzallo a Augusta, ecco, lei si immagina una sorta di militarizzazione con personale anche proveniente dall'estero ai fini di identificare sbarchi che variano e che con l'aiuto dell'Europa sicuramente si intensificheranno, perlomeno con riferimento ai singoli sbarchi, che so, si immagini la porta elicotteri inglese che fa una raccolta su tutti gli altri, quindi all'improvviso sbarca in un solo giorno 3.000, 5.000 persone. C'è bisogno di strutture, ma c'è bisogno anche, ripeto, di non creare per i territori che eventualmente le devono ospitare una situazione sostanzialmente ingestibile e invivibile. Ma ha un'idea di quanto ci possa volere dal punto di vista economico per gestire una cosa di questo genere? Guardi, non vorrei fare calcoli, perché se i calcoli che sono stati fatti fino ad ora parlano di 60 milioni, mi sembra che siano molto molto lontani dalla realtà, ecco. Ma lontani di quanto? Cioè, quindi siamo nell'ordine delle centinaia di milioni? Ma direi senz'altro di sì, per non contare, le ripeto, dei meccanismi compensativi che sono assolutamente indispensabili per poter fare in maniera che i territori non abbiano a patire la presenza di strutture che altrimenti corrono il rischio di creare tutta una serie di problemi collaterali che per noi sarebbero di difficile soluzione. Quindi diciamo complessivamente l'idea può anche essere accettabile, tuttavia va meditata bene, ecco. La ringrazio, grazie a Domenico Manzione, sottosegretario agli interni con delega all'immigrazione. Le auguro buona giornata e saluto Francesca Mozzetti. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Francesca Mozzetti, che probabilmente stiamo strappando al suo lavoro, ma per qualche minuto, fa la tassista a Roma da 17 anni, mi dicono. Sì, dal 98. Con padre, nonno e marito tassisti, quindi diciamo praticamente tutti qua, tutta la famiglia. Tutta la famiglia. L'abbiamo chiamata perché, insomma, gli ascoltatori lo sanno, la storia l'abbiamo raccontata di una sua collega che ha subito una violenza, una tremenda violenza sessuale. E vorrei capire, insomma, come, innanzitutto, come vivete questo momento. Vorrei capire se a lei sono capitati, non dico fatti simili, però insomma, quanto si sente di rischiare ogni volta che si muove. Innanzitutto vorrei dire alla collega che siamo tutti vicino al suo dolore, siamo tutti sotto shock per l'accaduto, poteva accadere a chiunque, è successo a lei, siamo tremendamente afflitti nell'animo. Queste cose purtroppo non vengono punite come dovrebbe o come ci piacerebbe, siamo tutti solidari. Purtroppo queste cose iniziano ad essere troppo frequenti, non così grave come questo episodio, però colleghi e colleghe rischiano ogni giorno, noi rischiamo tutti i giorni. A lei è capitato di subire un'aggressione? Aggressione non proprio, a me è andata bene, ad altre colleghe e colleghi purtroppo è andata proprio male, perché qualcuno si è trovato anche con seri danni alle ginocchia, ad avere problemi fisici anche protratti nel tempo, quindi oltre il danno anche il fatto di non poter tornare al lavoro in breve tempo. Purtroppo queste cose accadono e aspettiamo sempre che sia successa la tragedia per poter fare qualcosa. Io mi auguro che le autorità, qualcuno, un organo competente possa aiutarci e praticamente nella verità, nella pratica, fare qualcosa per poterci offrire la possibilità di lavorare con maggiore serenità, perché la strizza noi ce la prendiamo ogni giorno, perché non si sa mai chi portiamo, non possiamo dire dal viso della persona cosa avrà intenzione di fare, ci abbiamo le spalle scoperte, lo portiamo a destinazione e ci auguriamo ogni volta che la corsa vada a buon fine. Senta, che cosa si potrebbe fare secondo lei? Secondo me innanzitutto si potrebbe prevedere un'applicazione sulle app, sul telefonino, anche ai radiotaxi, basterebbe installare un pulsante collegato alle forze dell'ordine per poter localizzare col sistema GPS la vettura che è in movimento, che appunto lancia l'allarme e magari si sente già aiutata, controllata, seguita. A volte succede questo, perché grazie all'aiuto dei tassisti pronti, se si riesce a dare l'allarme, comunque parecchi tassisti si muovono per andare a inseguire l'autista che si trova in pericolo. Senta, ma molto semplicemente, come ci scrive un'ascoltatrice, Renata, dice: a New York hanno i vetri divisori. Io stessa l'ho installato nel 99, ho installato il vetro divisorio, lo schermo protettivo nella mia vecchia Brava. Ci serve un prototipo di macchina utile che vada bene per tutti quanti noi, che abbatta soprattutto i costi di gestione, perché il costo per poche macchine è elevatissimo, e in questo caso anche non so, un organo tipo la regione potrebbe prevedere un piccolo rimborso, un finanziamento, ma questa è pura utopia, visto che noi siamo una categoria, ci tengo a precisarlo, che ci sostentiamo e non graviamo in nessun modo, in nessun costo su nessuna delle autorità, delle istituzioni, per cui ecco, basterebbe avere delle agevolazioni. Siamo 8.000, per cui potremmo avere lo schermo divisorio su una macchina, due tipi diversi magari, per avere le spalle protette, e questo ci aiuterebbe a guidare almeno con una maggiore tranquillità. Poi se il cliente non vuole pagare o vuole aggredirmi, e con lo schermo divisorio, insomma, un ottimo deterrente per evitare almeno questo. Grazie Francesca Mozzetti, tassista a Roma, lo dicevamo, da 17 anni, e insomma un'intera famiglia di tassisti. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, poi ci ritroviamo subito dopo, torneremo sulla vicenda del ragazzo di 19 anni ucciso alla fermata dell'autobus nel Nuorese, e poi torneremo sulla nostra notizia di apertura, ossia il bombardamento da parte dell'esercito libico di un mercantile turco, un nuovo fronte di tensione internazionale in acque che, tra l'altro, come ben sapete, ne abbiamo parlato fino ad un istante fa, sono per noi strategiche. Una pausa e poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'esercito libico bombarda un mercantile turco, morto un ufficiale e alcuni feriti. Scontro tra Ankara e Tobruk, torneremo a parlarne tra poco. Immigrazione verso l'OK, la distribuzione dei profughi in Europa, ma ci vogliono risorse, avverte il sottosegretario all'interno Mansione, per le regole imposte dalla stessa Bruxelles, tecnici stranieri per la fotosegnalazione e centri di smistamento. Il presidente della Consob Vegas parla di rischio bolla dalla corsa dei titoli azionari, troppi vincoli e regole per le banche, scrive nella relazione annuale, frenano l'economia. Vertice in procura in Sardegna sull'omicidio del 19enne alla fermata dell'autobus, e anche questo sarà un argomento di approfondimento tra poco. Intanto la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ritorniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione di Effetto Giorno. Una nave cargo turca è stata bombardata ieri mentre si avvicinava al porto di Tobruk in Libia e poi attaccata dal cielo mentre cercava di allontanarsi. Un ufficiale è morto, ci sarebbero dei feriti, la nave in realtà sarebbe ancora in navigazione, ma su questo non ci sono dettagli, non è ancora chiara. Lo scontro tra ovviamente anche sull'interpretazione dei fatti a questo punto, perché Ankara dice la nave era in acque internazionali, era una normale nave cargo, dall'altra parte Tobruk, i libici dicono era in realtà, stava violando l'embargo imposto sulla città libica di Derna, dove ci sono i miliziani dell'ISIS che occupano una parte, se non gran parte, della città. Abbiamo con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. E che è esperto tanto di Libia quanto di Turchia. Alberto, come leggi questo incidente, che poi incidente non è perché è un attacco vero e proprio? Ma direi che è un episodio quasi fatale, dopo che il governo di Tobruk nei mesi scorsi aveva bandito la Turchia da tutti gli scambi commerciali ed economici con la Cirenaica, perché la Turchia ha sostenuto e sostiene il governo islamico più o meno moderato di Alba Libica, che sta a Tripoli, e quindi è in rotta di collisione col governo di Tobruk e col generale Haftar, che è sostenuto dall'Egitto. Quindi, insomma, in poche parole, i turchi sostengono i fratelli musulmani e Tobruk fa invece la guerra sia ai fratelli musulmani che agli islamisti del califfato che sono a Derna. Alberto, potrebbe avere conseguenze ulteriori quello che è successo oggi? Ma io penso che qualche conseguenza ci sarà di sicuro. Innanzitutto forse i turchi diventeranno un po' più prudenti nel loro sostegno alle frange islamiche radicali, proprio come quelle del califfato, perché se la nave era diretta a Derna è chiaro che comunque andava a scaricare delle merci, non sappiamo poi quali, proprio nella città che è in mano agli islamici. Quindi questo innanzitutto suggerirà ai turchi una certa prudenza, e poi comunque ci dice anche molte cose su quello che sta accadendo oggi in Libia. Proprio nel momento in cui si parla dell'immigrazione, cioè di un tema così delicato, si capisce anche molto bene che questo paese, anche se si affronta la questione dell'immigrazione, non si affronta la questione della Libia e della sua destabilizzazione, non si va da nessuna parte. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, chiaro come sempre. Saluto Pierluigi Piredda, che è un collega giornalista della Nuova Sardegna. Buongiorno Pierluigi, benvenuto. Buongiorno. Per parlare con te dell'omicidio che è avvenuto l'altro giorno, l'uccisione dello studente 19enne Gianluca Monni con due colpi di pistola alla fermata dell'autobus. No, scusa, ti blocco subito. Tre fucilate a pallettone a palla, non colpi di pistola. Tre fucilate. Perdonami se mi permetti. No, hai fatto benissimo, lo sapevo, sono scappati i colpi di pistola. Ascolta una cosa, è in corso una riunione degli inquirenti, mi sembra che la direzione che stia prendendo sia probabilmente una sorta di regolamento di conti, così potremmo chiamarlo, dopo una lite con dei ragazzi di un altro paese? È una strada che noi abbiamo imboccato fino al primo giorno, quando si parlava di pista passionale. Noi abbiamo, come nostra Nuova Sardegna, abbiamo fatto il collegamento tra la morte di Gianluca Monni e la scomparsa di un ragazzo di Nule, di 28 anni, che speriamo sia ancora vivo. Questo ragazzo era una strana sparizione, un strano il modo in cui era sparito. Infatti, guarda caso, l'indomani mattina, cioè all'indomani dell'omicidio di Gianluca Monni, la macchina di questo ragazzo, l'auto di questo ragazzo di Nule scomparso, è stata trovata a Riotta, a un mucchietto di cene, nelle campagne di Pattada, che è un paese del Sassarese, però molto vicino al confine con l'Orese e non troppo distante, sia ad Orune sia da Nulla. Ed è la macchina che potrebbe essere stata utilizzata per l'agguato, abbiamo capito bene? Al 90% sì, dovrebbe essere questa l'auto utilizzata per l'agguato. Però anche su questo sono molte questioni da chiarire, chiaramente, perché al momento in cui è successo il fatto, l'episodio a Orune, i ragazzi alle 7:30, alle 7:07 del mattino, c'erano ragazzi che stavano per andare a scuola e quando hanno sentito gli spari non hanno pensato a guardare che macchina fosse, ma hanno pensato a ripararsi e a nascondersi. Per cui credo che questa sia la cosa fondamentale. Poi chiaramente adesso con il passare dei giorni i ricordi stanno riaffiorando e ognuno sta portando qualcosa per colmare il vuoto delle indagini che chiaramente sono state fatte dai carabinieri con molta attenzione, cercando di farla più presto possibile, però in quei momenti non era facile che un ragazzino di 18 anni, 17 anni, 15 anni, 20 anni, quelli che erano lì che attendevano l'autobus, potesse vedere che macchina era passata, quando invece nella testa aveva sia gli spari e sia la morte dell'amico. Quindi non parlerei mai in questa situazione di omertà, come si è detto nei giorni scorsi, ma parlerei più di paura, che è più che logica in qualsiasi persona, in uno di noi è normale. Questo volevo sottolinearlo perché è importante. Grazie, io intanto ti ringrazio per Luigi Piredda della Nuova Sardegna. Dettagli anche su quello che è avvenuto li trovate sul sito www.lanuovasardegna.it. Ti ringrazio per questo aggiornamento, ovviamente buon lavoro, traffico.